24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Lei qui è arretrato con i pagamenti. Non ho pagato. Lo so che non ho pagato. Sorve fresca, se non meritai subito i 300.000 lire, io te rompo. Sto tutti i giorni giù al portone. Caccia di sordi. E ricordati che quell'altri 4 pippi che scedevi da. Te sono rimasti 7 giorni. Ma che? Zitto! Davanti a casa mia c'è sta Spartaco. Capirai, gli devo dare 300.000 lire. E non puoi aspettare. Sono 5 anni che aspetta. Perché paga subito? Pietà! Che pietà! Il premier Matteo Renzi, a marzo, sui debiti della pubblica amministrazione diceva questo. 21 settembre San Matteo, se noi paghiamo tutti i debiti della pubblica amministrazione, Bruno Vespa fa a piedi Firenze Montesenario. Poi è tornato sull'argomento dei debiti sempre della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese il 9 settembre e sempre a porta da Bruno Vespa. Le aziende che ci stanno seguendo e che hanno i crediti del 2013-2012 del passato, domani mattina vadano sul sito del governo. Certifichino il credito, certifichino quindi ciò che loro devono avere. Certificato il credito, vanno in banca, scontano pagando l'1,6%, cioè quindi su 1000 euro rinunciano, ahimè, a 16 euro, ma hanno pagato altro che entro il 21 settembre, entro l'11. Ecco, Renzi ha detto che con il sistema che ha descritto le imprese avrebbero visto tornare nelle loro casse i pagamenti dovuti entro l'11 settembre. Noi abbiamo fatto un fact-checking, cioè la verifica delle parole alle prove dei fatti, con i nostri collaboratori di Pagella Politica, di Pagella Politica, per capire se è vero che i debiti della pubblica amministrazione sono stati saldati. Purtroppo non è vero. Non è assolutamente vero. Non sono stati pagati e anche ricordo che la legge dice che dovrebbero essere pagati entro 30 giorni. Ma quanti sono i debiti della pubblica amministrazione? Esattamente, in realtà non si sa, perché Banca Italia dà una stima di 90 miliardi di euro. Il Ministero dell'Economia dice che sono 60. Pare che non si coordinino, non so se si parlano. Allora, di certo, quanti di questi debiti però fino ad ora sono stati pagati? Il governo Monti ne ha messi a disposizione 40 miliardi, il governo Letta 7,2, il governo Renzi 9,3. Lo Stato dunque ha stanziato 57 miliardi di euro per il biennio 2013-2014. Quindi sembrerebbe fatta 57 miliardi su 60, ma dire che sono stati stanziati però non significa assolutamente che sono stati pagati alle imprese. Infatti, quando il governo stanzia le risorse, prima che questi entrino nelle casse delle imprese devono fare molti passaggi e uno è quello che abbiamo sentito spiegato appunto da Renzi. Quindi, secondo l'ultimo aggiornamento del MEF datato 23 settembre, i debiti realmente pagati fino ad ora sono 31 miliardi di 60 o di 90. Quindi riassumiamo, debiti da pubblicazione 90 miliardi, forse 60, ma ne sono stati pagati realmente 31. Va detto però che guardando l'aggiornamento di luglio del MEF c'è stata effettivamente un'accelerazione sia per quanto riguarda i soldi erogati sia riguardo i soldi effettivamente pagati alle imprese. Su Twitter troverete i grafici che riassumono quello che abbiamo detto con il fact-checking 800-24-0024, il numero verde, 349-238-66, l'SMS. Carlo Bonomi, vicepresidente di Assolombarda, per credito, finanza e fisco. Si ritrova nei conti che abbiamo fatto? Buongiorno a lei intanto e ai suoi ascoltatori. Mi ritrovo pienamente in quello, nei conti che avete fatto, da quale emerge che effettivamente, nonostante le promesse che sono state fatte, i risultati non sono quelli che si attendeva il governo, ma soprattutto che si attendevano le imprese. Ecco, voi avete lanciato un'iniziativa interessante, il codice italiano per pagamenti responsabili. Mi dice rapidamente cosa vuol dire? Sì, diciamo, visto che dalla pubblica amministrazione non riusciamo a ottenere pagamenti certi, ci siamo dati un codice di autoregolamentazione almeno nei rapporti tra imprese, perché anche lo stock di debiti crediti tra imprese private non è indifferente. È un codice nel quale le imprese volontariamente aderiscono e si impegnano a rispettare i termini di pagamento contrattuali. Ecco, dottor Bonomi, a quale aziende è rivolta questa iniziativa? È un'iniziativa che è aperta a tutte le aziende, per cui a livello nazionale, imprese che aderiscono a qualsiasi sistema di rappresentanza e non, per cui possono essere aderenti a Confindustria, a Confcommercio, aziende che non aderiscono a nessun sistema, ma è aperto anche alle pubbliche amministrazioni. Infatti uno dei risultati molto importanti che abbiamo ottenuto è l'adesione della Regione Lombardia. Ecco, e quanti soldi? No, prego, finisca. No, la Regione Lombardia. Sì, che ha aderito non solo in quanto regione, per cui ente pagatore, sì, ma anche come promotore di premialità per le aziende che aderiscono al codice italiano pagamenti responsabili. E quanti soldi sono stati pagati con questo metodo, diciamo, con questo patto? Coinvolge una filiera di oltre 200.000 imprese per 60 miliardi di euro di pagamenti. Quindi le aziende che hanno aderito, ha detto, sono? Le aziende che aderiscono sono al momento 118, coinvolgono una filiera di 200.000 imprese per un totale di pagamenti di 60 miliardi. 60 miliardi. Caro Bonomi, è con lui che stiamo parlando, che è vicepresidente di Assa Lombarda. Volevo chiederle ancora, Assa Lombarda collabora per affermare il progetto del codice di autodisciplina con Confindustria, ma con che obiettivo finale? Ma l'obiettivo è quello, un obiettivo di impatto di sistema, ovviamente. Noi riteniamo che in un momento di asfissia come quello che abbiamo in questo momento del credito, che condiziona molte imprese nella loro politica di investimenti, di crescita, avere tempi di pagamento certi aiuta sicuramente a programmare i propri flussi di cassa, ad avere, come tutti sappiamo, dei rating migliori, per cui potersi presentare al sistema bancario con i conti in regola, e questo ovviamente aiuta a poter accedere a quei finanziamenti a medio termine che oggi le aziende soffrono su questo versante. Ci dà l'indirizzo internet per chiudere del sito per chi vuole saperne di più del codice italiano di pagamenti responsabili? www.pagamentiresponsabili.it. Mario Secchi, una domanda. Buongiorno Bonomi. Senta, la questione dei debiti della PA mette in evidenza che la mano dello Stato va ritirata. Non è il caso di che a Solombarda, a Confindustria, premano di più sulla fine del cosiddetto socialismo municipale, che è un altro enorme problema, tra l'altro concorrenza sleale, asimmetria dei mercati e così via? Ma guarda, io sono perfettamente d'accordo con lei, cioè se parliamo poi dei casi di in-house, abbiamo delle distorsioni di mercato che sono veramente non più sopportabili da un sistema economico come il nostro. Sì. Grazie dottor Bonomi, grazie, buon lavoro. Noi 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666. La nostra Marina Milone è andata a sentire che cosa si diceva all'incontro sulla finanza sociale promosso appunto da Confindustria della Comunità di San Patrignano. A Roma la Confindustria insieme alla Comunità di San Patrignano ha organizzato un dibattito Economia sociale di mercato e finanza sociale. Letizia Moratti, cofondatrice della Comunità di San Patrignano, così afferma. Sono convinta che noi abbiamo un problema di crisi strutturale nata dalla crisi finanziaria, trasformatasi in crisi dell'economia reale. Non siamo più sostenibili da questo punto di vista e questo rischia di creare difficoltà di coesione sociale, quindi credo che debba essere un impegno di tutti nel trovare strumenti nuovi e soluzioni a questo problema. Marcella Panucci, direttore generale della Confindustria, qual è il vostro impegno?

mentre se presta delle imprese ne accantona 6. Allora, equiparare alle medie e piccole imprese il coefficiente appunto di assorbimento di patrimonio significa liberare delle risorse per investire nelle imprese sociali. Invece detrazioni fiscali, cose? Certo, anche detrazioni fiscali, quindi in particolare l'esclusione dei prodotti finanziari ad impatto sociale dall'aumento della tassazione degli strumenti finanziari, quindi quello sarebbe estremamente importante. E a che punto è il governo? Su questo non c'è una decisione del governo. Io mi auguro che il governo, che sta mostrando di essere molto sensibile su questo punto, concordi con queste valutazioni e attivi degli strumenti concreti attraverso la legge delega. È altrettanto importante il fondo sociale che il governo ha deciso di stanziare e che ancora non è attivo per le imprese sociali, un fondo di 500 milioni di euro. Anche il patrimonio dei beni culturali italiani è considerato un elemento di impatto sociale, cioè anche la cura dei nostri monumenti può essere considerato un rendimento sociale, parola di Dario Franceschini. Quello che stiamo facendo con le norme nuove, i nuovi incentivi fiscali sull'art bonus, ed è quello che stiamo cercando di far passare nel paese, un paese che ha il più grande patrimonio monumentale, culturale, artistico del mondo, ma che non è consapevole che non lo valorizza. Mi fa un esempio concreto di economia sociale applicata ai beni culturali, un esempio? Beh, per esempio la partecipazione di cittadini, come avviene in altri paesi, nel sostegno ad un museo o nel recupero di una grande opera d'arte, crowdfunding, e in secondo luogo la possibilità per un'impresa di avere una specie di certificazione, come ce ne sono in altri settori, certifico che quell'impresa con una parte del suo bilancio contribuisce a salvare e aiutare il patrimonio italiano. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666. Mario, abbiamo un sms di Giuseppe che chiede cosa intendevi per socialismo comunale. Ne hai parlato? Tutte le società municipalizzate che svolgono servizi, a mio avviso, che possono essere dati a privati, fatti con più efficienza, con meno sprechi, con soddisfazione ai cittadini. Noi siamo nella città di Roma. Ditemi voi se il servizio di pulizia delle strade è adeguato alla capitale o a qualunque città dignitosa d'Europa. Lo fa il pubblico, io lo darei al privato, basta. Cioè, ci sono turni, assenze, sprechi, è una cosa colossale, è ripetuta in decine di città italiane questa situazione, è ora di finirla. Mix 24. E allora pensai che mai fossi felice, che tutta quella luce non era che una lampadina accesa nella sera, se nulla ti ha seduto più niente ti seduce, se in tutto farai il vice di se stessi porta a non amarsi più. Questa perché oggi, Mario? Pietrangelo? E allora pensai che mai ci sono certe mezz'orette che vengono bene, vengono bruciate come 1000 sigarette, e in questa canzone ognuno cerca la propria ombra e però trova sempre un'altra ombra da catturare, perché ciò che capita ricapita, e se si canta radunando questa magnifica musica è perché di tanto in tanto, cantando, è concesso di stonare. È il grande, magnifico Stefano Vergani e l'orchestrina Acapulco. Fuori la mia. Bello. E pesca tutte lui proprio, eh? Bella. Maestro. Grande maestro. E le tue bolle? Le mie sono. Giochiamo a scacchi. Tu giochi a scacchi, non è vero? L'ho visto nei quadri, lo dicono le leggende. Per quale ragione vuoi sfidarmi? Perché voglio sapere fino a che punto saprò resistere. E se dando scacco alla morte avrò salva la vita. Ti tocca il nero. Tocca a te. Allora io ti soffio il cavallo, eh? Ah, niente di più giusto. Mi hai messo in trappola? Esattamente. Ti sei caduto in piedi. Ecco, scacco al re. Settimo sigillo, Stamattina io sono andato su, proprio su coltissimo, però... grandioso. Allora, la morte, più morte di così, c'è una morte nera che avanza in Medio Oriente. Noi, ahimè, ne parliamo da molto, moltissimo tempo qui a Mix 24, in vano, devo dire, nel senso che parliamo ma non ascoltano evidentemente le persone che dovrebbero decidere. Insomma, ISIS ha piazzato la sua bandiera nera su Kobani. È una città turca, come sapete, cioè una città curda al confine con la Turchia, certo. Come sapete, e uomini, donne, perfino ragazzini, quasi bambini stanno combattendo ancora, ma la caduta della città è vicina. Alla periferia ISIS ha già piazzato le sue bandiere nere. Non hanno fatto niente i turchi, hanno lasciato fare e ci si aspetta un massacro. Gli americani sono fermi a raid aerei che servono a poco, anche questo. Poco nulla. Anche questo abbiamo detto. Certo. Qui l'Europa, ragazzi, è un disastro. Non c'è né politicamente né militarmente. Un disastro mai visto. ISIS è ai confini con la Turchia. La Turchia è NATO, quindi ai confini di un'alleanza. Stati Uniti e UE e pare siano troppo impegnati a stabilizzare i confini della Russia in una tensione veramente incredibile. Senza Mosca, aggiungo, non si ottiene un nuovo ordine mondiale, è inutile illudersi. Churchill e Roosevelt si allearono con Stalin. Io mi chiedo che cosa stiano pensando di fare, perché Kobani si trasformerà nelle prossime ore nella vergogna dell'Occidente. Veramente ciechi, sordi e muti. Io sono veramente, veramente arrabbiato e impotente di fronte a una cosa del genere. Prego. Petrangelo? C'è anche un fatto, che i cosiddetti ribelli siriani, per arrivare adesso a questi cosiddetti terroristi dell'ISIS, sono figli di una strategia occidentale. No, ci sono dubbi di errori, di divisioni, di finanziamenti sbagliati, così fu anche per i talebani, non è che purtroppo la storia si ripete, è che nessuno impara. Noi stiamo per assistere a un massacro di innocenti di casa. E non abbiamo fatto niente. Niente. E infatti c'è una domanda da farsi: come mai tutti questi vanno a seminare la morte nei territori dove c'è l'Islam? E non... Beh, insomma, li hanno seminati anche in Europa, eh? Non scherziamo. E secondo me ne semineranno sono ancora. Sono concentrati lì. Adesso, in questo ancora. Momento. You can't see what's going on. What's going on. Tell me what's going on. Pietrangelo, e io ho messo What's Going On e tu hai messo una bellissima musica italiana, perché sai perché, Giovanni? Perché? La voglio prendere un po' alla leggera, no? Questa musica sotto che è meravigliosa, senti. La voglio prendere alla leggera perché in realtà sta per arrivare una botta pesante nell'economia. Allora, i dati sulla produzione industriale tedesca, cari ascoltatori, sono pessimi. Ha rallentato del 4% rispetto a luglio in agosto. Questo è un segnale molto negativo che fa temere l'ingresso della Germania in zona recessiva. Speriamo di no, perché sarebbe un danno per tutti noi, in realtà, perché se non funziona la locomotiva tedesca non funziona l'Europa e quindi non funzioniamo neanche noi. Il mercato tedesco per le aziende italiane è importante. E viceversa. Si dice so what, insomma, che cosa succederà a questo punto? Niente, nel senso che i tedeschi probabilmente di fronte a un rallentamento dell'economia accentueranno in realtà la loro ortodossia contabile, quindi dobbiamo aspettare. C'è una situazione di debolezza di tutta l'Eurozona e bisogna attendere oggi i dati dell'outlook del Fondo Monetario Internazionale, che sono già molto negativi perché hanno rivisto le stime per tutti. Giovanni, è un periodo nero, veramente nero. Difficile. Bisogna lavorare con l'idea di costruire un futuro diverso, su basi economiche diverse. Ne parlavamo prima, l'hai detto, esatto. Tu, non so se lo vuoi ripetere, sull'1%, la distribuzione e così via. Quindi... Intanto Elio da Lodi ci dice: ma l'Ucraina è uscita dai radar? Domani ne parleremo sicuramente. Intanto Salamini. Federica Mogherini, la persona più competente di materia inconcludente. Giorno di audizioni ieri per i nuovi commissari della Commissione Juncker a Bruxelles. Ha parlato di South Stream, di Russia, di Medio Oriente, diffondendosi in chiacchiere. Poi ha avuto spento il microfono da l'inflessibile, così ha detto lei, Brock. Esponente di peso della CDU tedesca, uomo vicino alla Merkel, è appunto spiritosa al modo dei piritolli, ha commentato, è l'inflessibilità tedesca. Dopodiché, la cosa bella è questa, il capo della diplomazia italiana si è scusata dicendo non sono diplomatica. Ancora poco dunque sull'onda di Tavecchio e dei mangiatori di banane. Parlando dei tedeschi, ci immaginiamo che la Mogherini sia pronta a dare la definizione di mangiatori di crauti. Ma questi, cari Giovanni e Mario, è il trionfo dei piritolli. Ora è sempre americani, ora è sempre troppo very well. E io ho avuto modo di farmi, dato che la signora parla solo inglese, anzi americano, mi sono fatto fare una traduzione. Ascoltate. Virginia, mia donna, che poco paese, molto Florida e tutta California, compro per lei un mazzo di New Jersey, arriva alla sua porta, Kentucky, Virginia, Alabama, Messico, come Alabama, Texas, prende questo mazzo di New Jersey, Ohio, questo New Jersey is the top of Wisconsin, Alaska, Alaska del Duoco e Marizona riscale. Proprio Salasca e Sarrizona le scale, troppo very well, sempre troppo very well, troppo questa very Mogherini. Sara, cosa stai pensando tu? Adesso stai ridendo. Che è nata una nuova coppia e a questo punto non si può più far finta di nulla. Lei è già stata presidente della provincia dell'Aquila, innamorata di un ragazzo molto diverso da lei, che faceva il corteggiatore a uomini e donne, ha fatto anche lo spogliarellista ed è anche molto più giovane di lei. Si sono innamorati. È vero che lui ogni giorno ti chiede, mi vuoi sposare? Sì, è vero, ogni giorno. Sì? Confermo. Ecco, conferma. Erano la senatrice Stefania Pezzopane e Simone Coccia, appunto ex tronista. Che bello, Giovanni, si amano! Finalmente una coppia rivoluzionaria che supera ogni barriera sociale. Un amore libero, una delizia. Per me una delizia vedere una donna così innamorata. E poi lui. Cioè, nel senso, lei che prima di adesso, ossia dopo il terremoto all'Aquila, era sempre in TV e poi invece obiettivamente un po' meno. E io penso, ma forse di astinenza da video non soffrono solo extronisti e star TV, forse colpisce anche i politici? So, voi siete più esperti di me, spesso sono più in televisione dei conduttori, forse ci vogliono più di 3 mesi per sbandierare con certezza un amore? Boh. Intanto, sospesa nel mio dubbio, una canzone per tutti quelli che sono o pensano di essere innamorati. Mix 24. Prima del canzoniere, Mario da Roma. Buongiorno. A tutti. Io mi volevo intervenire in riferimento a una frase che ha detto Mario Sechi poco fa riguardo il decoro delle città. Allora, io faccio il volontario in carcere, le persone, molto spesso, molte persone che non hanno una pericolosità sociale, potrebbero uscire in pena alternativa con appunto l'affido in prova ai servizi sociali, quello a cui persone più autorevoli sono state condannate, e via, e potrebbero tranquillamente affiancare gli operatori ecologici. Naturalmente questo non è previsto nessun tipo di pagamento, di stipendio, di collaborazione, niente, perché appunto cosa ci vorrebbe per farlo? Nulla, è un tecnicismo, basta una lettera al magistrato in cui sì. Le società grandi dicono vogliamo prendere diciamo così in affido in prova queste persone, perché tanto è gratuita la cosa, certo. Non devono pagare niente, non devono usare niente, noi è un'associazione molto piccola, c'è come ogni associazione c'ha la sua assicurazione, rientri nel servizio di volontariato e sei coperto dal punto di vista assicurativo e basta, insomma. È un ottimo consiglio, un ottimo consiglio. Grazie Mario. Grazie Mario, il canzoniere. Smontato di cavallo, camminava lungo noccioli e siepi di rose selvatiche, seguito dal garzone di stalla con i due cavalli alle briglie. Camminava nei crepiti del silenzio, a torso nudo sotto il sole di mezzogiorno, camminava e sorrideva, enigmatico e principesco della vittoria, certo. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, il l'SMS. Mario, c'hai ancora c'è una bollettina. Sentiamo. Al cuore, Ramon. Se vuoi uccidere un uomo, devi colpirlo al cuore. Sono parole tue, no? Mazza i cowboy. Madonna. Va bene, per un pugno di dollari. Ramon Minoli. Allora, no, solo per dire che ci abbiamo uno che comunque un gringo vero che sta facendo... zero politica estera, male la politica estera, bene nel settore diciamo della pulizia della banca, finanza sì. E delle banche, sta assestando dei colpi piuttosto grossi. Di oggi la notizia che il Dipartimento della Giustizia americano sta per mettere sotto torchio una dozzina di superbanche, ancora una volta per la manipolazione dei tassi e derivati. Il gruppo è sempre più o meno lo stesso, quelli che hanno già subito delle super multe nei mesi scorsi. Obama sta menando, sta banche. Facendo cassa su quello, è l'unica cosa sulla quale veramente si è mosso, si è mosso resto, sul serio. Per il resto è calma piatta, non c'è radar. Pietrangelo Salamino. Mare calmo, l'Italia torna alle origini, è la rivincita della provincia. Su Repubblica di oggi c'è un interessante servizio sul controesodo dalla città all'entroterra, e si sapeva, sempre avuto ragione il topo di campagna rispetto al topo di città. E l'Italia è una nazione di compaesani, così scrive Diamanti, Ilvo Diamanti, citando il sociologo Segatti. Ed è una beata solitudine. E io ve lo voglio dire con la canzone di Giorgio Conte, accompagnandola a quello che è l'esergo. Ascoltate, affondato nella mia pigrizia, come una ciliegia sotto spirito, circondato dalle mie canzoni, assediato dai tigli, dalle querce, dai prati e dallo stormir di fronte, nella mia cascina, sotto un cielo fresco e assolato, dondolo nella mia beata solitudine. Posso dire una cosa, sono per i nostri ascoltatori, l'AMA, quelli che fanno le pulizie delle strade a Roma, 7.800 dipendenti circa, ogni giorno sapete quanti ne restano a casa con scuse varie? Quanti? 1.000. Posso dire un'altra cosa, da Baku mi sta arrivando questo messaggio, di a Mario che qui la pulizia strade è efficacissima, ottimo. Vengano ad imparare come si fa, basta avere un regime autoritario e tutto funziona. All'AMA ci vuole, questo è sicuro, 1.000 assenti al giorno, ma ragazzi, ma stiamo fuori dal mondo. Tanti baci a Baku. A proposito di regimi autoritari, il 7 ottobre del 2006, a Mosca veniva uccisa la giornalista Anna Politkovskaja. Queste sono le sue parole esattamente un anno prima di morire. La mia vita è difficile, certo, ma è soprattutto umiliante. A 47 anni non ho più l'età per scontrarmi con l'ostilità e avere il marchio di Reietta stampato sulla fronte. Non parlerò delle altre gioie del mio lavoro. L'avvelenamento, gli arresti, le minacce di morte telefoniche online... Naturalmente, gli articoli che mi presentano come la pazza di Mosca non mi fanno piacere. Vivere così è orribile. Vorrei un po' più di comprensione. Ma la cosa più importante è continuare a fare il mio lavoro. Raccontare quello che vedo. A 8 anni dal suo omicidio, l'omicidio di Anna Politkovskaja, faremo un ritratto della nostra collega russa, e a chiudere Marina Milone intervisterà il giornalista Amedeo Ricucci, che l'ha conosciuta bene. Intanto Nunzio da Catania, indovinato, sì, il nostro... Buongiorno. Buongiorno. Albert Cohen, La bella del signore. Giusto, Feltrinelli. Feltrinelli, c'è... Già, Catania sono bravi. Però, senti qua. Bravi, a Catania tutti loro indovinano. Studiano, leggono. Studiano, leggono. Ma lei cosa fa di lavoro? Io sono sempre il giurista. Ah, sempre il giurista, cioè sempre lei? Sì, l'ho reindovinato. Ma l'ha letto qui, mi sembra che ci sia un filone catanese che funziona. Sono letture fatte a Villa Cerami, immagino. sì, letture fatte a Villa Cerami, al fresco sotto il falso gelsomino nel giardino pensile. Beato lui, insomma. Naturalmente su Roma e sulla pulizia di Roma, di Mario? No, la Commissione Europea sta per rigettare il budget dei francesi. Ah, e la notizia è arrivata adesso, no? Sentiva nell'aria. Anche quello italiano avrà delle critiche pesanti, sì. Senti, intanto Massimo Spelta dice una cosa divertente per la nostra Tardelli. La Tardelli è come il papà, picchia duro sulle gambe. Sara? C'è ancora qualche notizia? Confermi? Bene, allora per chiudere, Claudio Baglioni, 1000 giorni di te e di me. Incontra chi se ne è...